La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi e 59, anzi, sono 31 primi. In diretta da Milano, vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. Oscar Giannino, e in diretta in podcast, sempre che il podcast ce lo mettano, non come ieri, dove non lo hanno messo. Mi tiriamo le orecchie dall'altra parte del banco, ma non mi sentono, non mi ascoltano, perché ieri non l'avete messo il podcast. Detto tutto questo, di cosa parliamo oggi? Parliamo di sanità ed è una puntata che nasce da una lunga, appassionatissima lettera di un ascoltatore che è un medico e che invito in trasmissione, invitiamo in trasmissione dopo averlo sentito, ho detto ma lei può parlare eccetera eccetera, perché mi ha molto colpito il fervore, nonché la completezza delle sue esposizioni, è un punto di vista sulla sanità italiana, sui suoi problemi, su il taglio con cui affrontarli, prima ancora che come affrontarli su almeno i maggiori capitoli, per così dire, relativi al sistema sanitario nazionale. Mi ha molto colpito perché è un punto di vista, per così dire, ferreamente coerente. Io ne ho un altro, ma non mi picco, certo. Ve l'ho spiegato quando abbiamo parlato del rapporto annuale dell'AIOP, dell'associazione che rappresenta e accoglie tutta la sanità ospedaliera privata, e abbiamo parlato di quanto sia complesso nel nostro paese vivere in un sistema di accreditamento anche per i privati, ma con meccanismi come sono diventati automatici di riduzione della spesa solo sui privati, perché questo è. Poi ci sono anche riduzioni di spesa per la parte pubblica del settore pubblico, però dalla farmaceutica alla parte privata accreditata di ogni regione. Quando abbiamo parlato del rapporto annuale dell'AIOP avete visto qual è il criterio asimmetrico. Ma detto tutto questo, ed è un sistema privato che soddisfa una quota a doppia cifra della domanda italiana, detta fuori dai denti. Ma invece il nostro ascoltatore, il medico che è con noi, che adesso vi presento, è un difensore convintissimo e con insomma, molti punti, convince anche me per carità, di un punto di vista rigorosamente pubblico. E quindi io intanto lo ringrazio di aver scritto, di essersi reso disponibile. Il suo nome è dottor Marco Santini, è un medico ospedaliero alla Spezia. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Grazie a lei, grazie dell'opportunità. E sì, ma ci mancherebbe altro. Lei dice, io tutte le volte che sento parlare di sanità, il più delle volte ne sento parlare dal punto di vista economico, mentre invece il discorso che andrebbe fatto, e qui capitolo per capitolo affronta tutta una serie di argomenti con delle opinioni forti, beh sì, dice, capisco l'economia, capisco il rigore dei conti, tutto deve tornare nei saldi pubblici, ma la questione è, in realtà viene prima, no? La questione viene prima in questi termini, che bisogna dire cosa vogliamo far funzionare. Cioè, se la macchina che deve funzionare è la macchina sanità, dobbiamo anche capire quanti soldi, comunque quanti denari sono messi sul piatto. Io nella mia lettera, nella mia esposizione, ho affrontato proprio questo capitolo qua all'inizio, cioè quanto denaro c'è. Adesso è stato depotenziato, definanziato fino al 6,9% del nostro PIL, sì. Perché se io mi raffronto con la medesima percentuale di altri PIL, comunque abbiamo sistemi molto più finanziati. Aspetti però, perché lei citava delle cifre, la media UE è 7,2, stiamo parlando di pochissimo in più in percento, cioè noi siamo quasi pochissimo sotto la media europea, che è il 7,2%. Io mi raffronto però rispetto a una Francia o una Germania, perché la Francia ha l'8,2 del loro PIL, certo. Ma è tutto in proporzione al PIL, mica vogliamo spendere, ma no, ma voglio dire, cioè, è un valore percentuale di un punto superiore, come se in Italia avessimo 15 miliardi di euro in più per il Fondo Sanitario Nazionale in proporzione al PIL, la differenza tra la nostra percentuale e quella della Francia. Ok, però Al di là di questo, poi in fondo si parte dal denaro, però arriviamo a come eroghiamo il servizio. Sì. Io vedo che tutto sommato le porte d'ingresso nel sistema sanità sono due prevalentemente: c'è il pronto soccorso e c'è la medicina di base. Ora, i pronto soccorsi è notorio, sono oberati di lavoro, sono oberati di accessi. forse sarebbe anche bene dare meno occasione ai cittadini di arrivare al pronto soccorso. Spesso e volentieri il pronto soccorso eroga prestazioni non propriamente d'urgenza, ma semplicemente per il cittadino l'unica maniera per avere un suo diritto. Quindi prevenzione. Non solo prevenzione, anche soddisfare un bisogno non magari incombente, ma comunque che necessita in quel momento e che non viene erogato da nessun altro, perché la vera carenza è la medicina di base. Io non sto dicendo che i medici di base lavorino poco, tanto, troppo. Io dico soltanto che la percezione da parte del cittadino è comunque di un servizio insufficiente. No, la percezione del cittadino, però, almeno come ce ne è testimoniata la tonnellata di lettere che riceviamo, è che il medico di base è un ricettificio. È un ricettificio, quindi, e che comunque viene pagato e che comunque in effetti andare dal medico, perché ci sono anche i medici di base che fanno comunque, si spendono molto. No. Quindi, però, sommariamente è un servizio poco efficace. Allora io dicevo, rendiamo quindi più funzionale questo servizio, che comunque deve restare, però perché non cerchiamo, io nella lettera dicevo potremmo assumerli tutti, però senta, comunque vengono pagati dallo Stato, cioè la mamma che paga la stessa, sa che quale sarebbe il vantaggio? Sarebbe la fidelizzazione, comunque istituzionalizzarli veramente, perché adesso avendoli così abbiamo comunque, poi è vero che loro hanno le loro linee guida, adesso esatto, le ASL sono molto più attenti, sì, però sono in effetti tanti cani sciolti di fatto, cioè il medico singolo nel suo ambulatorio eccetera. Sì, ma lei qui però non dimentica, perché lo sa e me lo insegna, però sì, siccome noi abbiamo nella competenza regionale sanitaria dei sistemi regionali improntati anche a criteri molto molto molto diversi tra loro, lei lo sa, no? Abbiamo un sistema, esatto, che ha fatto abbiamo una scelta come quello sanitari esatto, regionali, è una cosa assurda, che questo significa anche nei piani sanitari regionali. Per quello che riguarda i presidi territoriali, quelli non solo per la prevenzione, ma i presidi ambulatoriali, eccetera, eccetera, filosofie e logiche, oimè, oppure per fortuna, insomma, visto che li abbiamo diversificati e con diversi tassi di efficienza, molto diversi, come si vede dai dati del turismo sanitario ospedaliero all'interno dell'Italia, anche molto diversi come criteri organizzativi. Appunto, ma questo però fa poi sempre tutto... Lei dice un errore, sempre... bisognerebbe riunificare. Io riunificherei, sì, per me è fallimentare, cioè per me, parlando con tanti colleghi, la riforma del titolo quinto dal punto di vista della sanità è stato fallimentare, però può anche, in effetti poi, in questi anni… Ma lei non crede alla concorrenza di modelli diversi, oppure il suo ragionamento è, con la diversità dei modelli noi rompiamo l'unità dei livelli di assistenza che devono essere omogenei e uguali per tutti? Direi che è troppo diversificato. Voglio dire, io vivo in una città di confine, sì, e mi trovo quindi a dover ricorrere obbligatoriamente a Genova per certe prestazioni d'urgenza, eccetera, che spesso possono anche non essere soddisfatte perché comunque Genova può non essere in grado in quel momento. E quindi ricorro molto a Massa per la cardiochirurgia oppure a Pisa per la neurochirurgia. E trovo risposte con modalità differenti. Certo. Però, ritornando al discorso dei medici di base, lei pensi che comunque ogni medico ha una sua testa, al di là delle linee guida che certo, pure ha, al di là anche delle norme stringenti che giustamente la regione, le ASL applicano, cioè, abbiamo però tanti centri di costo, abbiamo moltiplicato i centri di costo di fatto, perché ogni medico comunque ha il suo modo, modo di ragionare, di approcciarsi al paziente, quindi tutto sommato è una spesa che è difficile da controllare, cioè se loro fossero più istituzionalizzati, veramente vincolati al sistema sanitario, non più liberi professionisti tra virgolette, forse la spesa da questo punto di vista potrebbe ottimizzarsi. E tra l'altro c'è anche poca spinta veramente a avere un feedback anche, cioè col paziente che hanno in cura, perché tutto sommato sono in qualche modo slegati dalla struttura poi ospedaliera. Aspetti, lei però prima, per far capire meglio a chi ascolta, perché non perdiamoci per strada tutti quelli che non sono, sì, che non conoscono il sistema, come sa, Allora, lei, per capire, con una frase che dà molto l'idea, anche se io sono terrorizzato da come significherebbe la sua attuazione in Italia, perché chi può dirla di no, sentendo? La leggo. e la sintesi in una frase di quale dovrebbe essere la finalità precipua di efficienza del sistema di prevenzione. Un buon sistema di prevenzione con un database di tutti i pazienti con relative informazioni cliniche con modalità di accesso diverse dovrebbe essere lui a chiamare il paziente in studio seguendo criteri di età e patologia. Sto leggendo dalla lettera che mi aveva mandato. Io leggendo dico magari. Ecco, poi ma però penso che il nostro sistema nazionale, il sistema sanitario nazionale in decenni non ci ha dato neanche un portale con percentuali comparate per tipo di patologia e tipo di terapia o interventistica seguita di percentuali di successo o meno per capire dove andare in Italia a seconda per le patologie, voglio dire, quelle più serie, più gravi. Figuriamoci pensare a un database del paziente, cioè sembra un po' fantascienza. Lei invece dice si può fare. Ma scusi, per me cioè, è una cosa fattibilissima, è una questione di volontà. Ma le pare possibile che ogni volta che io vado in pronto soccorso, prendo un paziente in carico, devo ovviamente, se è un paziente della mia ASL e ha fatto già accessi in ospedale, trovo nell'archivio dell'ASL. Certo. Però se non l'ha fatti o se l'ha fatti altrove, devo continuamente chiedere ai familiari cosa hanno fatto. Ma vede, voglio... Santini, io le chiedo questo perché, non perché tecnologicamente non sappia che si può fare, né perché abbia particolari ubie, anche se ci sono problemi poi ovviamente di cyber security su un database di tutti i dati privati dei pazienti, ma perché vedo che in molti ospedali che conosco, a differenza di altri che altrettanto conosco, la sola cartella elettronica per l'ospedale comporta molte resistenze da parte delle diverse categorie in ospedale, perché la cartella elettronica, che significa i fingerprints digitali in ogni singolo passaggio sul paziente, e sto pensando solo dal momento in cui entra al momento in cui esce dimesso da un ospedale, quindi non l'intero suo database di dati della vita di paziente in tutte le età, comporta il fatto che a quel punto restano le impronte digitali in tempo reale di ciascuno. Ciascuno ha la paura oggi della medicina giudiziaria, tutti preferiscono la compilazione ex post, per così dire, quando si è già capito come vanno le cose. Per alcune patologie abbiamo avuto a volte ospiti che ci hanno detto: ragazzi, ma voi pensate davvero che sia immune da rischi questa cosa? Per me quella sarebbe la cosa ideale, nel diritto del paziente e dei suoi pazienti, per efficientare la gestione ospedaliera, ma soprattutto anche per quello che dice lei, per valutare al meglio i casi comparati, su come affinare gli interventi, per tipo di patologia, per tipo di caratteristica personale che quella patologia ha su quel malato. Quindi io dico, non riusciamo a fare la cartella digitale negli ospedali? Lei mi parla di un database di tutti i pazienti. Beh, ma un database è più semplice della cartella digitale, però. Un database sono semplicemente dei file Word o PDF diversamente accessibili. Sì. Tutto sommato, anche noi adesso nella nostra ASL qualche reparto ha già iniziato a digitalizzare, ma la resistenza da parte nostra non è sulla digitalizzazione, è sul fatto che purtroppo il sistema informatico non è tanto efficiente quanto servono le nostre necessità. Questo di sicuro. Purtroppo è quella. Perché servono server con giga e terabyte. Devono funzionare sempre. Certo, è ovvio. Lo vediamo con la condivisione delle immagini. Cioè non è... No, no, servono investimenti nella tecnologia molto forti. Quando uno vede a volte i computer che ci sono negli ospedali, solidarizza con voi, ovviamente, perché che può fare? Oppure anche il personale informatico magari non viene adeguato per nulla. Cioè, ecco, voglio dire, la cartella digitale è bellissima, ma deve partire tutto insieme. Ok, allora, questo era per far capire il servizio di preventiva. Poi, andando a quello che stava dicendo, le leggo un'altra frase per ancorarci poi nel nostro processo successivo per tutte le diverse cose che dice nella lettera. A un certo punto dice, sì, io sono medico ospedaliero, vedo che si parla sempre dell'ottimizzazione dei costi, l'acquisizione delle siringhe, cioè il procurement sanitario, la CONSP e così via, ma il tema che pongo io vorrei ragionamenti analoghi rispetto a interventi chirurgici, neurochirurgici, una procedura demodinamica, angiografica, di emodialisi. Cioè, quali sono i criteri standard per l'accesso alle UTI, alla dialisi, alla chirurgia, eccetera, eccetera? Questo lei scriveva. Questo è un capitolo delicatissimo che la politica fugge assolutamente. Perché? Perché lo vediamo adesso alla... Non, perché hanno probabilmente c'è la paura di perdere voti, oppure queste cose non si sanno spiegare, ma lo vediamo col testamento biologico. Il testamento biologico è passato a una Camera, adesso vediamo al Senato, però il vero punto d'arrivo secondo me è la limitazione cure per comorbidità. Allora, questa formula è incomprensibile tranne che per addettissimi ai lavori. Cosa vuol dire limitazione cure per comorbidità? Vuol dire che pazienti che hanno patologie croniche ovviamente gravi eccetera, a questi pazienti non vengono più somministrate alcune terapie invasive, cioè non viene più fatta un certo tipo di rianimazione, non viene somministrata dialisi, non viene fatta questo è, diciamo, il grande. Io sono d'accordo con lei, lo dico da anni quando si parla delle disposizioni dell'ultima volontà, del testamento biologico, la politica si inalbera, poi fa passare il tempo, eccetera, eccetera. Perché c'è un grande non detto che riguarda quello che poi avviene davvero con i pazienti cronici, quelli che vanno avanti con gli anni nella vita ospedaliera. Riprendiamo i 4 minuti perché adesso abbiamo un'informazione di servizio sul traffico. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta. La versione di Oscar. Allora, questo tema, l'ultimo che abbiamo toccato, prima abbiamo parlato della prevenzione, assunzioni, eccetera, eccetera, poi andremo a un altro tema delicatissimo, cioè perché lei, il nostro ospite, il dottor Marco Santini, dice che bisogna fare una scelta netta, il sistema pubblico, niente intramenia, ma basta, bisogna superarla questa roba. Ma al di là di questo, il tema delicatissimo che avevamo sfiorato prima è quello che Santini dice: mi chiedo perché si debbano ancora sottoporre a procedure invasive persone malate croniche. Questo, detta così, fa sobbalzare un pochino, o no? In effetti è in maniera rude, però trovo assurdo parlare di spesa, quindi di bilancio eccetera, e poi non considerare anche questo aspetto. Mamma qua. Mia, non la metta così perché vedo già che poi c'è l'insurrezione su questo aspetto. Ma in ogni caso le linee guida scientifiche, per esempio, di limitazione cure ne parla. Non viene affrontato dalla no, ne parla, dalla è quello che dico io, lo spazio grigio è che la politica fa finta di non sapere che nelle linee guida questa roba c'è già, presupponga un dibattito culturale a monte prima di metterlo. Esatto. No, voglio assicurare i nostri ascoltatori, vi garantisco che nella lettera ci sono tutti i caveat, non è questo il punto, non è per risparmiare, è per una cosa di dire, però parliamo delle cose davvero che ci sono all'ospedale. Perché lei è così radicalmente contrario alle intramenie? Allora, intanto nella lettera parlavo soprattutto anche di extramen in ogni caso, sì. Perché là, per esempio, Regione Liguria, prima a fine legislatura, addirittura rispettando la legge quadro Sirchia in ogni caso, comunque riammise i direttori di struttura complessa all'extramenia, sì. Dicendo, adducendo motivi di fuga dei pazienti, eccetera. E lei dice come consentire a un'azienda di far lavorare anche per il concorrente. Ma certo, è assurdo, questo è una cosa inconcepibile, l'extramenia per un ospedaliero. L'intramenia, io non penso, cioè ovviamente si dà per scontato che tutti i colleghi facciano il loro orario dentro. Però lei ha qualche dubbio, perché lei diceva bisogna fare sparire anche quello. Sì, perché in ogni caso secondo me comunque un po' distrae, ma comunque io immagino un altro sistema, cioè dove un sistema in cui c'è l'esclusività. Pubbliche... L'esclusività. Eh sì, aziende pubbliche dicano ho delle liste d'attesa lunghe e basta, spingo i miei medici a non fare più intramenia, li pago di più e li faccio lavorare dentro. Cioè sistemizziamo questa cosa, perché tutto sommato avere liste d'attesa e utilizzare poi le medesime strutture per, ovviamente qua si parla di interventi, di procedure invasive, di esami particolari, non dell'intramenia fatta in ambulatorio che non incide minimamente con altre procedure. Però gli interventi chirurgici, gli esami complessi radiologici, queste cose qua, io trovo che vadano sistemizzati in altra maniera. Allora, quello che vorrei farvi capire, perché la lettera è molto lunga e sono molti altri temi, è che senti, si pone poi a un certo punto un problema, ma non è che tutta questa maniera di non parlare di questi temi è semplicemente perché non si vuole ammettere che la sanità con il mercato non regge, finisce a un certo punto, e se ci si chiedesse se l'incapacità di trovare risorse per il sistema sanitario o giustizia, pensioni eccetera, pensioni spendiamo il 16% del PIL, Santini, non è che non ce l'abbiamo, ne abbiamo troppe, non sia l'ennesima conferma della crisi di un sistema, quello capitalista, lei la pensa così. Allora, io ho voluto solo dare un po' di esempi però del fatto che io rispetto molto ragionamenti fatti in punta di concretezza di questo tipo, e io condivido quello che pensa Santini, che ha un punto di vista alternativo al mio, però dice ma perché la politica non ci fa discutere su questa cosa qua, perché poi l'ultima pagina era un appello molto alto alla politica e invece ci troviamo semplicemente con l'ultima riunione delle regioni con 1 miliardo sì, 5 miliardi su, un meno, e tagliare quel che si taglia senza fare il discorso complessivo. Io su questo sono completamente d'accordo, cari ascoltatori, la si può pensare in maniera diversa, ma eludere la complessità di scelte organiche di priorità è che è diventato il gioco automatico di una politica che si riduce l'ultima settimana ai saldi da portare a casa dicendo che poi la colpa è dei tedeschi, dell'euro, è quello di non affrontare, di perdere di vista la visione complessiva seria delle priorità. Quindi io ringrazio Santini di aver scritto. Adesso voglio sentire rapidissimamente qualcuno di coloro che ci hanno telefonato. Camillo da Bergamo, qual è la sua esperienza? Allora, la mia esperienza, che è piuttosto estesa perché ho lavorato nel pubblico, nel privato, a pronto soccorso, eccetera, è che anzitutto non mi chiedo perché non si prenda la palla al balzo per cambiare la medicina di base. Così com'è non costa, funziona tanto, esatto, e rende pochissimo. Quindi su questo siamo d'accordo con Santini, perfetto. Poi per quanto riguarda il pronto soccorso, è legato alla medicina di base, certo, e quindi ma lei su il privato, perché qui c'era riduzione degli accreditamenti, revisione generale degli accreditamenti e stop a intramenia e extramenia, esclusività, lei come la pensa su questo? Ma forse sono in parte d'accordo col dottor Santini, c'è da pensare che il privato per quanto riguarda le risorse umane le sfrutta al massimo, le sfrutta al massimo esagerando talvolta, però diciamo io voglio distinguere, c'è un privato fatto dei cronicari per anziani che spesso è ai limiti, se non oltre il codice penale, però ci sono anche eccellenze straordinarie di IRCS innegabili. Allora noi avremmo bisogno, secondo me, di un'altra puntata, lo vedo dalle telefonate, perché queste questioni sono i temi di fondo, di un pezzo di fondo che significa dignità oltre che libertà e sicurezza e coesione sociale. Prometto che lo faremo. Intanto grazie a Marco Santini e a chi con questa passione ci manda le sue idee, sapendo che qui ci si può confrontare su questo. Continuate su Radio 24, appuntamento con Alessandro Milano, 8:20 a 22.